un attimo, ecco, come ti chiami? Camilla. Camilla, ma cosa ci fate voi qua stasera? Ma guarda, io mi trovo qui del tutto casualmente, nel senso che sono stata coinvolta da Bianca, la cantante romana, la romanazza, diciamo. La romanazza è quale romanazza? Non ho notato ancora nessuno. La romanazza, è strano che tu non l'abbia notato, è abbastanza appariscente come individuo. Cosa faceva? Si aggirava con dei codini così di foggia vagamente tardo rinascimentale. Tu suoni la samba band? Ma guarda, io un paio di volte sì, sono andata. Occasionalmente? Ti piace il rosa? Il rosa sì, il rosa devo dire che è il colore dell'affettività, tra l'altro. Ci terrei a sottolineare questa chicca. No, sì, è il colore dell'affettività. Il rosa c'entra con il verde? Guarda, non saprei. Io non li vedo bene assieme, però se lo dici tu... Ti ho chiesto. Ci ragiono, poi ci penso. Invece 8 marzo? L'8 marzo è giallo, direi, un giallo mimosa, così un po' un giallo ocra. Tu sei di Torino? Ma veramente sono di Milano. Caspiteria, ma milanese a Torino. È infatti per questo che alla fin fine qua dentro ho conosciuto un leccese, un otrantese, così c'è cioè un po' una cozzaglia di eterogenea. Catastrofismo? E catastrofismo ha molto senso, soprattutto sì. Mi guardi con un fare così, un po' inquieto, però vabbè. È un tasto delicato il catastrofismo, bisogna capire com'è che lo si intende. Sì, no, ma io infatti... C'è vita dopo capitalismo? Ma io, guarda, secondo me sì. Poi bisogna vedere che vita, come...